E così, così Radio Popolare si è guadagnata una citazione da parte di Walter Veltroni. In un articolo sulla prima pagina del Corriere della Sera, per di più, roba da gonfiare tutti il petto per l'orgoglio, perché non capita di frequente che un vicepresidente del Consiglio, per di più un vicepresidente del Consiglio che, diciamo così, non è solito prestare tutta quella grande attenzione alle cose di cui non si occupa personalmente, citi un organo di informazione tradizionalmente un po' spellacchiato come la nostra radio. E invece ci cita nel suo intervento di giovedì scorso sul più diffuso quotidiano nazionale e cita per la precisione i nostri ascoltatori come esempio tipico di popolo di sinistra. E siccome dal nostro punto di vista essere di sinistra è una connotazione positiva, si è tentati di prenderlo volentieri per un complimento per loro gli ascoltatori e un complimento per noi che di quel popolo cerchiamo di soddisfare le esigenze di informazione e intrattenimento. Evviva, evviva. Poi uno legge con più attenzione l'articolo e l'entusiasmo un pochino si smonta, Perché dei nostri ascoltatori il Walter Veltroni ricorda soltanto una cosa che molti di noi preferirebbero dimenticare, le discutibili opinioni esibite sul tema della solidarietà e l'assistenza ai profughi albanesi nei noti microfoni aperti che si sono svolti attorno a Pasqua. Come ricorderete, parecchi intervenuti, mica tutti, ma parecchi, avevano dichiarato in diretta che loro gli albanesi in giro proprio non ne volevano, che d'aiutarli e di solidarizzare con loro non ci pensavano neanche, che ogni paragone con gli emigranti italiani del passato era improprio e fuorviante perché i nostri maggiori raminghi per il mondo erano dei lavoratori seri e coscienziosi, pronti a integrarsi nelle società che li accoglievano e lieti di contribuire al loro sviluppo, mentre gli albanesi sono notoriamente una banda di lazzaroni assai lucidi con cui meno si ha a che fare meglio è, e delle albanesi non parliamo. Beh, dice il Veltroni, eppure costoro restano di sinistra. E si capisce che l'affermazione è vagamente interessata, perché anche lui Veltroni e i suoi colleghi di governo sono stati accusati, scrive, in occasione dei provvedimenti presi per fronteggiare la crisi albanese, di aver smarrito la loro identità di sinistra. E l'accusa evidentemente gli brucia, lui si considera ancora di sinistra, e figuriamoci. Solo che adesso la sinistra deve governare, e governando si imparano tante cose, si impara la distanza tra le parole e i fatti, si impara a dire delle verità scomode, per esempio sulle pensioni o sulla rigidità del lavoro, si impara che non esiste più, anche per chi sta dalla nostra parte, una sola verità. Ed ecco la citazione esatta, che assume la dimensione di una vera e propria esemplificazione di scarica, o se come si dice più normalmente in giurisprudenza, di chiamata di correità. Il popolo di sinistra che invoca la sicurezza a San Salvario è diventato di destra? Lo sono diventati gli ascoltatori di Radio Popolare? Lo è Giuliano Amato che vuole riconoscere i diritti dell'embrione? Lo è Livia Turco che non vuole la liberalizzazione della marijuana? E poi dice che potrebbe continuare. Mi permetterete di lasciar perdere per l'occasione Giuliano Amato e Livia Turco, perché il discorso ci porterebbe troppo in là. E lasciamo perdere anche il problema di che cosa sia diventato Walter Veltroni, che fa quello che può e forse non è del tutto colpa sua se fa pochino. Ma lui scrive che la ragione della sua vita politica, tra virgolette, è la volontà di coniugare, tra virgolette, il massimo di radicalità col massimo di realismo, chiuse le virgolette. E non si accorge, poveretto, che si caccia nei guai fino agli occhi, perché quella del realismo in politica e altrove non è una categoria ovvia come sembra. E il giorno in cui questo nostro coltissimo vicepresidente del Consiglio avrà imparato che la realtà non è qualcosa dato una volta per tutte da chissà chi a cui non si può far altro che sottomettersi con zelo, ma qualcosa che va anch'essa definita e costruita, perché gli unici valori che ci si trovano sono quelli che ci abbiamo messo noi, sarà proprio un gran giorno per tutti. Però su quei tali che per invocare la sicurezza a San Salvario hanno detto le cose che abbiamo tutti sentito dire in televisione, sugli ascoltatori di Radio Popolare che in nome di una propria asserita superiorità personale e nazionale generalizzano insulti e negano qualsiasi disponibilità ad aiutare chi ha bisogno d'aiuto e si abbandonano alle più assurde contorsioni ideologiche per rifiutare quella tolleranza che non è un'espressione di buonismo, ma è quello su cui da Voltaire in poi è stato costruito l'edificio della democrazia moderna, su quelli qualcosa lasciateci dire, insomma, perché diavolo dovremmo considerarvi di sinistra costoro? Perché votano per il PDS a San Salvario? Perché ascoltano la nostra radio? Significa attribuire troppo potere sia al PDS sia alla nostra radio. Ciascuno ha le responsabilità di quello che pensa e quello che dice, e se pensa e dice delle cose strane alla tradizione e ai valori della sinistra è liberissimo di farlo, ma questo significa schierarsi in un altro modo. Perché, scusatemi, la sinistra non è un contenitore in cui se ci siamo qualsiasi idea ci passi per lo capo. Essere di sinistra è un impegno, non è un'appartenenza. Non è una cosa che si misura sulla fedeltà alle organizzazioni storiche, alle loro tessere, ai loro inni, alle loro bandiere, anche se detto proprio tra di noi, a me sentire le note dell'Internazionale usate come colonna sonora di uno spot di autocelebrazione della propria capacità di far spegnere le luci cittadine per permettere a tutti di osservare la cometa è una cosa che mi ha fatto girare alquanto i coglioni, ma non importa. Ma non è neanche un'etichetta che non impegna niente, essere di sinistra è un impegno. È difficile, sì, è contraddittorio, certo, perché è vero che su una quantità di problemi è inevitabile avere delle opinioni diverse e bisogna proporre delle soluzioni diverse, ma se vogliamo essere uno schieramento, significa che su ogni problema dobbiamo schierarci e che quello che ci distingue dagli altri sono i valori su cui ci schieriamo. E quando questi valori si riducono stringi alla difesa della realtà data, con la maiuscola, quella realtà data in cui non ci sono albanesi o altri estranei dai piedi, ciascuno è libero di dare sfogo alla sua intolleranza e di esplicare il suo egoismo, ma per fortuna c'è Veltroni, vicepresidente del Consiglio, capirete che è arrivato il momento di farsi chiamare in un altro modo. Tu non mi basti mai, davvero non mi basti mai. Tu, dolce terra mia, dove non sono stato mai.